politica, eccetera, che lavorano insieme. Queste persone qua aumentano, questi gruppi qua aumentano in tutto il centro di Atene, in tutte le località della Grecia. Io l'altro giorno ero andato fuori Atene e ho incontrato gente di questo tipo qua, soprattutto gente giovane, gente politicizzata, la quale vuole lavorare e lavora, però non vede luce nel buio, perché la sinistra non si unisce, la sinistra non collabora. Sì, senti, un'ultima cosa, sappiamo che per esempio sempre nell'ambito di quella che tu chiamavi questa nuova povertà, no? Questa povertà veramente disperata che ormai ha investito, diciamo, un po' tutta la popolazione greca, che rispetto a delle organizzazioni, chiamiamole non governative, che si occupavano soprattutto della salute e anche della sopravvivenza delle persone che venivano da altri paesi, queste organizzazioni ormai assistono per la gran parte persone che, greche, gente che proprio greca, che viene dall'interno della Grecia. Sì, infatti c'erano i Medici Senza Frontiera e altri gruppi di medici, no? Che prestavano lavoro non remunerativo agli stranieri. In questo momento le loro associazioni parlano di prestare servizi a migliaia di persone greche. C'era il comune di Atene che prestava, che dava la possibilità di pranzo a migliaia di stranieri. In questo momento ci sono tutti i comuni di Atene, i mistrofi di Atene, che fanno mense per tutti i poveri senza pagare, eccetera, eccetera. E lì vedi delle persone che erano che sono greci e che erano impiegati, che erano operai e così via, i quali non hanno la possibilità di mettersi qualcosa da mangiare a mezzogiorno e vanno a mangiare in queste mense qua. E si organizzano in tutti i rioni di Atene, è una cosa incredibile, ragazzi, è incredibile. C'è anche la Chiesa praticamente che presta questi servizi qua. Escono i preti alle TV e alla radio che fanno che chiedono più viveri, più oli, fanno praticamente richieste di macaroni, di patate, di fagioli, di olio, eccetera, eccetera, perché non basta per dare da mangiare alle persone che vanno a mangiare a mezzogiorno. Senti, adesso un'ultima cosa. Questo problema del debito se ne parla più, cioè c'è più qualcuno che dice usciamo per esempio dall'euro, abbandoniamo la moneta unica, torniamo alla dracma, c'è più nessun partito che fa proposte di questo tipo? Ma direi che in Grecia ci sono due schieramenti, no? I schieramenti del mnemonio e i schieramenti del non mnemonio. C'è lo schieramento praticamente di sinistra, ma anche altri personaggi della politica, i quali dicono che è meglio non pagare il debito per 2, 3, 4 anni e per usare questi soldi per lo sviluppo della Grecia. Però ci sono anche altri gruppi come il Partito Comunista Greco, che era contrario al Maastricht, che dice che tutte queste cose qua sono collegamenti con la nostra entrata nella comunità europea, e praticamente vuole uscire dalla comunità europea e vedere un pochettino come risolvere il problema economico. Quindi diciamo è rimasto solo il Partito Comunista a dire usciamo dalla comunità europea e quindi dall'euro. Sì, sì, quello lo diceva già da diversi anni il Partito Comunista. Però ci sono anche altri gruppi di sinistra non parlamentari, i quali dicono la stessa cosa. Ci sono tanti economisti che dicono la stessa cosa, però non hanno come linea, cioè tanti però, tanti, cioè praticamente tutta la sinistra, ma anche gruppi che non sono della sinistra, anche gruppi di destra, dicono di non pagare il nostro debito per 4-5 anni, in modo che questi soldi, perché noi in questo momento prendiamo i soldi che ci dà la Comunità Europea e il Fondo Monetario Mondiale, no? Per pagare i nostri debitori. Certo. Quindi... Allora dicono, non paghiamo loro per 3-4 anni e usiamo questi soldi per lo sviluppo della Grecia. Però capite bene che queste cose non avvengono. E poi la rabbia dei greci è che prendono tutti questi soldi e questi soldi che danno ai nostri debitori e gli altri soldi li danno alle banche per la sopravvivenza delle banche. Certo. Ma il popolo greco non riuscirà a sopravvivere fra poco, con tutte le tasse che mettono, con la sanità che è andata a frantumi, come farà a vivere la popolazione? Questo è un problema che in qualche modo ci abbiamo anche qui, certamente non ai livelli greci, e quindi è un problema comune un po' in parecchie parti d'Europa, insomma, certamente, però la Grecia da questo punto di vista fa da esempio a tutti gli altri, insomma, e chi vuole capirlo. Sì, perché come cavia hanno usato la Grecia, lo stesso il Portogallo, la Spagna e così via, e la crisi del capitalismo è una cosa sistematica, cioè d'ora in avanti questa fine non lo so se riusciranno a portarla anche in altri paesi come l'Italia o quelli che hanno un debito pubblico abbastanza alto. Senti Tasso, veramente un'ultima cosa, hai notizia di iniziative, di manifestazioni, di scioperi nei prossimi giorni? Sì, c'è, vi ho detto anche altre volte che i sindacati vengono controllati dal Partito Socialista Greco praticamente, è stato un lavoro capillare negli ultimi 30 anni in modo che riescono a controllare i vari partiti, i vari sindacati. Così i sindacati, invece di spingere per fare le manifestazioni, vengono spinti dagli operai e dai loro membri per poter fare qualcosa. Adesso ci sarà una grossa manifestazione il 1° maggio, che tutti la aspettano praticamente come se ci fosse la resurrezione in quel giorno lì. Hanno paura sia i governanti e sia i sindacati per quello che succederà il 1° maggio. Bene. Comunque c'è, a parte insomma, anche quello che abbiamo detto, c'è un inasprimento se possibile della repressione. Io so che il sindaco di Atene per esempio ha fatto un appello a tutte le forze politiche che usciranno dalle elezioni perché cambino un po' le regole anche di ordine pubblico, no? Quindi una limitazione forte al diritto di manifestare in un certo senso, prendendo spunto poi ovviamente dal fatto che queste manifestazioni, com'è comprensibile, poi diciamo diventano un po' più decise, ecco, diciamo così, come è stato in passato. Sì, il sindaco di Atene vuole che francamente ha sorpreso tanta gente di sinistra che l'ha votato, va su posizioni veramente di destra. La vincita, diciamo, della democrazia rispetto alla dittatura militare ha portato anche la libertà della gente di occupare piazze, di camminare per le strade, di manifestare per le strade, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni chiunque, qualsiasi organizzazione voleva fare una manifestazione nel centro di Atene, chiudeva una strada e faceva la manifestazione. Sto sindaco di Atene ha cominciato a dire a bassa voce, però la dice adesso anche uscendo alle TV, che vorrebbe controllare per il buon funzionamento della città, controllare anche le manifestazioni, cioè praticamente di occupare una parte della strada per poter far passare anche le macchine e tutte queste cose qua. Però la gente non la puoi controllare, la gente ha tanta rabbia dentro, ma tanta rabbia dentro, che ragazzi io non so come andrà a finire questa storia qua. Vedi delle scene nel centro di Atene incredibili, fermano per esempio uno straniero i poliziotti e vedi 30 che se la prendono con i poliziotti, cioè non sai come andrà a finire. E queste cose qua le dicono i governanti, però la gente non le rispetta. Bene, vedremo diciamo, per il primo maggio sicuramente ci risentiremo, così faremo un altro collegamento per questa manifestazione e anche diciamo, per la situazione generale, perché poi a maggio ci saranno appunto le elezioni, mi sembrano, quindi questa manifestazione cade proprio in piena campagna elettorale, credo. Ma certo, perché ancora non pensate che siamo al 10 di aprile, ancora non ci hanno detto il giorno delle votazioni. Stanno litigando perché vogliono allungare la vita di questo governo per poter passare delle varie leggi contro la popolazione, e di conseguenza una volta dicono il 6 di maggio, l'altra volta dicono il 13 di maggio. Il Partito Socialista Greco vuole allungare un pochettino il tempo perché vede che i suoi membri non vogliono votare i socialisti, e di conseguenza ancora non sappiamo come andrà a finire. Sicuramente che tutti parlano del primo maggio, perché i politici hanno paura del primo maggio, i sindacati vorrebbero fare la manifestazione e la popolazione vuole fare la manifestazione senza essere controllato dai sindacati, e così vedremo delle cose che non sappiamo il risultato. Va bene Tasso, allora a risentirci prossimamente, sicuramente per il primo maggio, ti salutiamo e vi auguro buongiorno, statemi bene. Anche tu, in bocca al lupo. Ciao Tasso, grazie. Grazie. Grazie. Grazie.